Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi abbiamo un ospite con noi per parlarci di un futuro sereno per gli adulti con disabilità. Lui è Luca Marchi, direttore della Fondazione Dopo di Noi Bologna. Benvenuto. Buongiorno a voi, salve. Bentrovato, ti ringraziamo per concederci il tuo tempo perché sappiamo che sei molto impegnato in questa fondazione che è utile soprattutto per coloro che necessitano di cure, necessitano di attenzione, necessitano di essere aiutati. Di che cosa si tratta esattamente la Fondazione Dopo di Noi? Allora, Dopo di Noi è il termine che, coniato da genitori familiari con disabilità, la grande preoccupazione: cosa sarà dopo di noi, di questo figlio con disabilità? E così 20 anni fa, perché ricorrono davvero i 20 anni della fondazione, nel 2002, 13 familiari hanno dato vita a una fondazione, a un ente che si occupasse in modo specifico di questo tema. Anch'io, che avevo già un'esperienza nel settore della disabilità, ho scoperto strada facendo che lavorare sul dopo di noi non è esattamente uguale a lavorare con la disabilità, perché insieme alla persona con disabilità c'è tutto il vissuto di quella famiglia, il lavorare, il pensare, immaginare il futuro e la protezione del futuro di quella persona. Quindi una situazione complessa che ha bisogno di interlocutori qualificati, competenti e molto attenti, in grado di ascoltare le famiglie. Ora sono 20 anni, dicevamo, che fate questo lavoro. Vuoi farci un esempio di un esempio, come dire, che state affrontando in questo momento? Beh, nuovissimo, siamo in corso, stiamo lavorando al nuovo appartamento, è l'ottavo appartamento a Bologna provincia, in cui 6 giovani con disabilità andranno a vivere, uscendo dalle famiglie, quindi realizzando un po' le basi di quello che potrà essere davvero il loro futuro. Non lo si fa da un giorno all'altro, perché per arrivare a questo punto questi giovani hanno fatto un lungo percorso, anche di anni, in un altro nostro appartamento, dove appunto casa fuori casa si impara a acquisire quelle capacità che servono poi un po' a gestire nella vita quotidiana. I giovani normalmente magari imparano andando a studiare fuori città, facendo delle esperienze. Molte di queste attività un giovane con disabilità non le fa, resta in casa e si resta all'interno di quel guscio, no? Comodo, caldo, giustamente i genitori fanno quello che devono fare, però il singolo fa fatica ad evolvere e quindi a costruire un proprio futuro. Noi affianchiamo le famiglie per aiutarli in questo percorso, con serenità, con gradualità, creando appunto occasioni di futuro. Ad oggi sono 19 le persone, giovani, che vivono fuori casa, dico giovani ma anche meno giovani, insomma, comunque è chiaro che riguarda persone con disabilità adulte, insomma trentenni, quarantenni, anche cinquantenni, e che nei nostri progetti hanno trovato proprio un percorso di vita. E per dire, alcuni di loro sono rimasti orfani strada facendo, ma non c'è mai stata nessuna emergenza, perché avevano già una strada definita e segnata insieme ai loro familiari, avevamo tracciato una strada. Quindi un altro progetto lodevole, un'altra splendida iniziativa che va a aiutare delle famiglie che potrebbero, come dire, trovarsi in difficoltà, come dicevi giustamente. C'è un modo per aiutare, per chi volesse, come dire, contribuire alla Fondazione Dopo di Noi? Al modo più semplice è destinare ad esempio il 5 per 1000 con la, certo, propria dichiarazione dei redditi, mettendo il nostro codice fiscale, e tutto lo trovate nel nostro sito www.dopodinoi.org, dove ci sono anche molte storie, molte immagini dei nostri progetti. Il 5 per 1000 di quest'anno, raccolto quest'anno, sarà interamente destinato al progetto 6 a casa, 6 appunto, 6 persone che troveranno una casa. E in tutto questo poi donazioni, anche possibilità di far volontariato presso di noi, acquisti solidali, troverete nel sito bomboniere, possibilità dei regali natalizi, non nel periodo, ma insomma arriverà.